strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti, da Massimo De Donato torna l'appuntamento dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura ovviamente ci occupiamo di emergenza coronavirus. FCA ha bloccato la sua produzione in Europa e in Nord America, ma ha deciso di andare avanti con alcuni dei suoi stabilimenti per produrre mascherine particolarmente preziose in questo periodo di emergenza sanitaria. L'obiettivo è arrivare, iniziando già nelle prossime settimane, a realizzare oltre 1 milione di pezzi al mese per donarle ai primi soccorritori e agli operatori sanitari. Anche il cavallino rampante farà la sua parte. Ferrari sta infatti approntando un piano per riconvertire gli impianti produttivi della Modenese alla produzione di ventilatori e respiratori polmonari. Assicurare le riparazioni urgenti e i pezzi di ricambio ai veicoli con precedenza per chi si occupa di trasporto merci o di attività correlate alla gestione della crisi. È questa la priorità invece di Mercedes-Benz Italia, che nel rispetto delle disposizioni del governo imposte dall'emergenza Covid-19 ha comunicato di proseguire il suo impegno nel centro logistico europeo di Capena in tutto il paese attraverso la rete di officine. Continuerà anche ad essere operativo il servizio di assistenza stradale. La Regione Veneto ha prorogato di 30 giorni la scadenza del bando per la rottamazione degli autoveicoli inquinanti. L'obiettivo è evitare che i disagi causati dall'emergenza coronavirus limitino la partecipazione dei cittadini. Sarà dunque possibile fino al 5 maggio 2020 presentare domande per la concessione di incentivi che possono arrivare, lo ricordiamo, fino a 4.500 euro per la rottamazione del vecchio veicolo e per il conseguente acquisto di un'auto nuova. Nel 2019 gli italiani, per far revisionare la loro auto presso le officine autorizzate, hanno speso 960 milioni di euro, di cui 314 milioni incassati dallo Stato tramite IVA ed altre imposte. Sono questi dati che emergono da uno studio dell'osservatorio Auto Promotech. Ricordiamo tra l'altro che a seguito del decreto Cura Italia le scadenze relative alla revisione ai collaudi fino al 31 luglio sono slittate al 31 ottobre prossimo. E cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di car sharing, per ricordare che in realtà il car sharing nelle nostre città e in quelle dove funzionava ovviamente prima è ancora operativo. Soltanto pochissimi operatori hanno deciso di sospendere le attività. Ovviamente car sharing che può essere utilizzato da chi è provvisto dell'autocertificazione e che può muoversi in base a quanto dettato dalle disposizioni governative, quindi rientra nelle casistiche individuate dal governo. Car sharing che ha in qualche modo affrontato questa situazione anche con dei processi di sanificazione eccezionali delle vetture, processi dei quali parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Giuseppe Benincasa, direttore generale di Aniasa. Allora, innanzitutto le chiedo: qual è stato l'impatto sul mercato? Ci sarà stata sicuramente una riduzione importante di questo servizio. L'impatto è stato rilevante, abbiamo sostanzialmente raggiunto un picco del 90% di crollo delle attività, che è chiaramente collegato alla contrazione della possibilità di mobilità del territorio da parte di quelli che sono gli utenti ordinari del servizio di car sharing. Ecco, quindi la flotta è attiva regolarmente su tutti i territori dove era operativa già prima del fenomeno? Sì, sì, la flotta è regolarmente attiva esattamente in tutto il territorio, è disponibile e quindi chiaramente in termini di possibilità, ripeto, di quella clientela che ancora ha la possibilità di muoversi per tutte le attività che sono autorizzate, gli spostamenti che sono autorizzati, la flotta è totalmente disponibile. Ecco, per quanti sono autorizzati, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, ad utilizzare l'auto, sono attive anche per delle procedure di sanificazione che sono consigliate per tenere sempre pulito e disinfettato l'abitacolo. Ascoltiamo questa scheda. L'auto si può ancora utilizzare per motivi indifferibili di lavoro, salute e necessità. Ma per contenere al massimo le possibilità di contagio da Covid-19 è necessario che sia ben pulita. L'Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna ha fornito allo scopo alcuni suggerimenti, ricordando che il virus sopravvive a lungo sulle superfici e quindi anche su quelle delle vetture. Per una corretta igiene a bordo si suggerisce di pulire le superfici interne, con particolare attenzione a volante, cambio e chiavi di avviamento, con prodotti in grado di sanificare. È utile inoltre sostituire i filtri dell'aria condizionata e disinfettarli con gli appositi spray, per ridurre i batteri aerobici che circolano nell'abitacolo. È necessario usare l'aspirapolvere sulla tappezzeria e lavarla con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini. Per una pulizia in profondità è però consigliato anche rimuovere il filtro dell'aria, sanificando le bocchette e i tubi che mettono in circolo l'aria stessa. Rientriamo in studio, siamo sempre in compagnia di Giuseppe Benincasa, direttore generale di ANIASA, che lo vogliamo ricordare, l'associazione di Confindustria che raggruppa le imprese specializzate nel noleggio auto e quindi anche il car sharing. Al di là di questo segmento specifico, appunto, del car sharing, come sta andando in generale il settore del noleggio in questo momento in Italia? In generale sul mercato dell'auto, quindi dell'autovettura, chiaramente il trend è esattamente lo stesso, cioè stiamo avendo un abbattimento significativo, anche perché sia il flusso turistico sia il flusso della clientela business, quella che si muove per affari, chiaramente è crollato in base alle limitazioni oggettive. Quello che invece sta andando in maniera veramente forte è l'attività di noleggio dei van e dei furgoni, che chiaramente in questo momento sono fondamentali, se non essenziali, nella distribuzione delle materie prime, farmaceutiche, alimentari, prodotti per la salute, eccetera, eccetera, che vengono utilizzati soprattutto per la copertura del famoso ultimo miglio, e quindi questi stanno andando molto bene, nel senso che sono disponibili, e ovviamente l'impegno delle aziende, sia per la parte car sharing sia per la parte ordinaria, è quello di aver aumentato in maniera significativa il processo di sanificazione dei veicoli a fine giornata. Ecco, proprio a proposito di questo processo, prima abbiamo ascoltato i consigli per chi vuole farlo a casa con la propria autovettura, invece come si stanno muovendo le imprese di car sharing su questo fronte? Innanzitutto con un protocollo molto rigido sul processo di igienizzazione, quindi praticamente c'è un protocollo di utilizzo di determinati prodotti e la necessità che venga pulita la vettura seguendo determinate linee guida, ma soprattutto, aspetto più importante, che è aumentata in maniera significativa la frequenza, quindi la vettura viene pulita più volte al giorno, e soprattutto in una fase come questa, dove abbiamo una flotta che sostanzialmente non si muove, ripeto, il crollo è di circa il 90%, abbiamo la possibilità di seguire praticamente vettura per vettura quelle che si muovono e andare a igienizzare immediatamente. Certo, ebbene, noi con queste informazioni chiudiamo qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Giuseppe Benincasa, direttore generale di ANIASA. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte, come sempre dedicata alle case costruttrici. Cercheremo di capire cosa succede in Giappone, in particolare in casa Mazda. Tutto questo fra pochi minuti. Restate con noi. La scuola comincia alle 8 e finisce alle 5 del pomeriggio, già dal primo giorno in cui c'è stata la sospensione delle attività. All'Istituto Tecnico Tosi di Busto Arsizio non hanno perso un'ora di lezione grazie alla didattica a distanza. Professori e ragazzi davanti al computer, perché la scuola non si lascia fermare dal coronavirus, anzi accetta la sfida e fa un balzo verso nuove forme di insegnamento. Tutto questo frangente ci porta a ripensare profondamente il nostro modo di fare scuola. Innovare è indispensabile. Sono Maria Piera Ceci e ogni giovedì nuovo podcast del nostro viaggio nelle scuole più innovative d'Italia verso il futuro e oltre. Naturalmente su radio24.it. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, in questo spazio, come di consueto, dedicato alle case costruttrici, ci trasferiamo in Giappone per cercare di capire cosa sta succedendo in questo paese e soprattutto quali sono ovviamente le ripercussioni sul mercato italiano, e ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Roberto Pietrantonio, direttore di Mazda Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, proprio da un paio di giorni abbiamo visto una vostra campagna di comunicazione importante, perché è una campagna che dà un messaggio chiaro. Un settore colpito pesantemente da questa crisi, ma che vuole reagire. Una campagna che tra l'altro era stata, credo, pensata e predisposta per ben altro. Sì, effettivamente avevamo degli spazi televisivi prenotati già da tempo, e quindi si prevedeva che andassero con uno spot commerciale tradizionale. Nella fattispecie era il CX-30, il nostro best seller del momento, e però diciamo che ci sembrava un po' di stare fuori dal mondo, sì. Senza considerare un po' tutto quello che sta accadendo attorno a noi, e quindi anche basandoci sulla sensibilità particolare di Mazda, che è una storia particolare, molto legata agli accadimenti tragici di Hiroshima del 1945, certo. Abbiamo voluto dare un messaggio di speranza, quindi è uno spot che, diciamo, si rivolge agli italiani, ed è un messaggio di speranza che dopo questi accadimenti poi c'è una ripartenza. Come sempre, e come ovviamente si spera avvenga nel più breve tempo possibile. Tra le altre cose, Mazda, del resto come gran parte, la quasi totalità delle case giapponesi, ha interrotto, sospeso le lavorazioni nei suoi stabilimenti. Cosa sta succedendo, cosa succederà nelle prossime settimane in Italia? Certamente sulla base di quello che sta accadendo in Italia, e non solo in Italia, purtroppo devo dire che anche il resto d'Europa ci sta seguendo, ovvero la chiusura sostanzialmente di tutti gli showroom di vendita, e quindi evidentemente si fermano totalmente le vendite, e di conseguenza la produzione va ritardata di conseguenza. Questo sta accadendo in Giappone, visto che comunque la maggior parte delle vetture, anzi la totalità delle vetture che arrivano qui in Italia, arrivano dagli stabilimenti del Giappone, di Hiroshima e di Ofu, e nello stabilimento messicano di Mazda. Quindi un adeguamento ai nuovi volumi, alle nuove richieste di mercato, in questo momento prevede una sospensione della produzione per 13 giorni e anche con una riduzione di turni negli stabilimenti di Hiroshima ed Ofu, e ovviamente si andrà a monitorare la situazione via via. E per quello che riguarda stabilimenti esteri rispetto a quelli giapponesi, quindi in Messico e in Thailandia, al momento sono previste chiusure di circa 10 giorni. Quello che contraddistingue le fabbriche Mazda è una grande efficienza e la grande flessibilità, per cui ovviamente si sta monitorando tutte le richieste dei clienti in pending, o quelle che magari stanno agli sgoccioli arrivando anche in questo periodo, e ovviamente per cercare di non avere nessun ritardo. Poi i volumi si cercherà di ritararli, al momento si prevede di ritararli spostandoli in avanti nell'anno fiscale. Questa è anche una speranza e un augurio, certo, al settore dell'auto, che tutto vada, diciamo, come era inizialmente programmato. Ecco, a questo proposito, come era inizialmente programmato, anche Mazda, come gran parte delle case costruttrici, aveva fatto una pianificazione anche di uscita di nuovi modelli per il mercato europeo ed italiano. Cosa succederà nei prossimi mesi, compatibilmente ovviamente con questa situazione? Certo, la situazione è fluida, quindi si sta monitorando, come tutti d'altronde, momento dopo momento, anche sulle attività da farsi. Però allo stato attuale posso dire che, per esempio, si sta procedendo esattamente come da piano per il lancio della prima vettura completamente elettrica di Mazda, quindi della MX-30, ovvero stava andando avanti la possibilità di una prenotazione online su una versione speciale di lancio. Questa va avanti, la abbiamo prolungata sino al 30 aprile, quindi diciamo si sta shiftando di un mese in questo senso, però sia l'arrivo nei showroom italiani, sia la data di lancio, quella di settembre, al momento sono confermate, e così come altre tante piccole attività, tra piccole e grandi, di comunicazione e ovviamente di comunicazione sul prodotto, al momento sono tutte confermate, però siamo vigili a spostarle, a essere flessibili il più possibile. Ecco, si sta sviluppando in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane in Italia un dibattito sulla opportunità in questa fase storica particolare della transizione energetica verso l'elettrico, verso altre forme di alimentazione. Qual è la vostra posizione in proposito? Ma considerato che la posizione filosofica e progettuale di Mazda è quella del multi-solution approach, ovvero qualsiasi soluzione che dia delle risposte positive sotto i KPI, i parametri, diciamo quelli che vengono monitorati per il bene dell'ambiente, bene, qualsiasi tecnologia è quella giusta, si è adottata al momento giusto, nel luogo giusto e anche agli scopi giusti. Per cui l'elettrificazione, sulla quale in questo momento ovviamente c'era e c'è una spinta particolare, soprattutto nell'Unione Europea, sicuramente deve andare avanti. Quello che probabilmente andrà rivisto in un contesto economico un po' più allargato è la giusta misura, quindi il quanto bisogna spingere sul breve periodo, quanto bisogna più attendere. Saremo a vedere, al momento non ci sono discussioni perché evidentemente le priorità sono altre. C'è un dibattito, come dire, all'interno delle associazioni di categoria, soprattutto alimentato anche da alcune interviste sull'opportunità in questo momento di pensare anche nei mesi successivi ad una transizione industriale così importante come quella che prevede l'elettrico. Sì, diciamo che in questo momento io, per quello riguarda l'associazione di categoria, dico che chi è sul fronte principale, quindi il fronte principale dell'incendio che ci può essere dal punto di vista economico del nostro settore, sono le concessionarie. Sono circa 1.400 aziende in Italia, con più di 120.000 dipendenti in Italia, e queste vanno sicuramente tutelate. L'auspicio è che ovviamente in questo momento ci sono priorità diverse, però non appena possibile il governo consideri delle misure dedicate anche alle concessionarie, che hanno una caratteristica: elevati fatturati ma margini molto bassi, per cui magari in questo momento non rientrano per i fatturati molto alti nelle misure prese dal governo, ma è auspicabile che questo avvenga, perché altrimenti poi alla ripresa potremmo avere delle difficoltà con degli imprenditori che andrebbero pesantemente in difficoltà. Successivamente poi sarà da pensare a misure per la ripresa del mercato, e quindi lì bisognerà andare a stimolare i consumatori, ripristinare la fiducia nei consumatori e quindi sostenendoli. L'URAE, da questo punto di vista, l'associazione alla quale apparteniamo, ha proposto tutta una serie di misure, e ripeto, non è questo il momento di parlarne, però ci sarà, e ci auguriamo che venga presto, quando ci sarà la ripresa, per dare uno stimolo a un settore che pesa in maniera molto rilevante sul PIL italiano. Certo. Pietro Antonio, siamo in chiusura. Un'ultima battuta proprio a proposito di questa ripresa di cui lei parla e che, ribadisco, speriamo arrivi nel più breve tempo possibile. Molti sostengono che nulla sarà più come prima, il mercato sarà modificato in qualche modo, c'è bisogno di ripensare a dei nuovi modelli, anche distributivi, e quindi anche il mondo dei concessionari probabilmente verrà toccato da questa riformulazione. Secondo lei cosa potrebbe succedere? Beh, allora, certamente questo già stava accadendo in qualche misura, questo probabilmente sarà un acceleratore. Noi stiamo osservando con molta attenzione quello che accade in Cina, evidentemente in Cina sono temporalmente più avanti di noi, avendo vissuto questo momento prima di noi, e quello che sta accadendo nel settore auto è che nella lenta ripresa, ma che comunque è una ripresa in un'economia che ovviamente è totalmente diversa da quella europea, l'approccio dei consumatori è un attimo cambiato, quindi c'è molta più attenzione paradossalmente al veicolo privato rispetto al trasporto pubblico, e questo è comprensibile almeno in una prima fase, e anche al tema delle vendite online, sempre un po' sulla falsariga del distanziamento sociale, no? Che quindi rimane un po' nel DNA dei consumatori, e questi sono i temi che andranno approfonditi e che si stanno approfondendo in questo momento. Noi in questo momento interagiamo con la nostra rete con una sorta di hashtag che per noi è un mantra, non fermiamo il cervello, quindi siamo fermi, siamo a casa, ma il cervello deve essere in movimento per provare a lavorare su attività qualitative e uscirne fuori ancora migliori rispetto a prima che succedesse tutto questo. Allora, hashtag non fermiamo il cervello, noi lo adottiamo ovviamente con grande piacere, e salutiamo Roberto Pietrantonio, direttore di Mazda Italia, che ci ha accompagnato in questa seconda parte di Strade e Motori. Termina qui la nostra trasmissione, che torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.